Volevo dire solo un paio di cose prima di uscire. Sento le voci nella testa. Ho rotto tutti quanti. Oh, sto sul cazzo un po' a tutti quanti. Esclusivo. Io non ho capito te cosa vuoi da questo ragazzo. Io non ho capito te cosa vuoi, forse sei pazzo. Io non ho capito te cosa vuoi da questo ragazzo. Io non ho capito te cosa vuoi, forse vuoi il cazzo. Chiamo Just e questo è il mio modo di fare. Io godo nel fare in modo che la gente mi riprende e mi dice non lo dovevi fare. Fanno un brutto affare se mi fanno firmare con una major. Quale sono il meglio, anche se nella vita reale sono il peggio. Dicono pare che mi atteggio, ma quando gareggio o vinco o perdo compare, non pareggio. Sentirai le porcate a cui inneggio, e se mi cercherai non mi troverai come il parcheggio. Io non ho capito te cosa vuoi da questo ragazzo. Io non ho capito te cosa vuoi, forse sei pazzo. Io non ho capito te cosa vuoi da questo ragazzo. Io non ho capito te cosa vuoi, forse vuoi il cazzo. Col flow più assurdo, sembra che sto sotto fungo. Sono il più puro, sono quello che ti resta in testa più a lungo. Urgo, servo, purgo, snervo. Fumo come un turco, fumo con un turco. Ti inculco, frasi in testa, ti catapulto alla festa. Vivo con un genitore esasperato, una voce interiore che non ho mai ascoltato. Hai problemi di cuore, sei disperato, c'è il vendicatore mascherato. Gesto strone, questo è il suo nome, presto in prigione now. Gesto, ma come, ma questo è un coglione, questo è il suo show. Non vuole che si usino certe parole, tipo cuore, tipo amore. Tutto questo tipo di parole che per lui fanno rima con orrore. Senti me e cambi colore, senti me e senti il calore, senti me e senti l'odore perché ho appena acceso un fiore. Senti me ormai da 3 ore, senti me perché non hai pudore, senti me e perdi l'onore, senti me e smerdi le suore, senti me e senti il sudore che ti cola dalla fronte. Capisci che nella vita hai sbagliato qualcosa a monte. Senti me e senti il fetore della merda. Senti me ma preferisci il fumone oppure l'erba. Per me uguale, guarda, tanto basta che si fuma. E se c'è il blocco della pula, oh, chi se la incula. Io non ho capito te cosa vuoi da questo ragazzo. Io non ho capito te cosa vuoi, forse sei pazzo. Sai quanto me ne può sbattere che tu non mi fai il tifo. Mi fa schifo. Io lo so che tu mi vuoi fottere. Considerati avvertito, ma non è una minaccia, non confondere. È un consiglio d'amico. www.giusto.it Secco. Ecco cosa vuoi. Io non ho capito te cosa vuoi da questo ragazzo. Io non ho capito te cosa vuoi, forse sei pazzo. Io non ho capito te cosa vuoi da questo ragazzo. Io non ho capito te cosa vuoi, forse vuoi il cazzo.